anche nella storiografia del lavoro domestico dell'ultimo secolo. Abbiamo intervistato circa 70 donne e abbiamo distinto nel gruppo delle intervistate due, per dire, due generazioni. Tre quarti delle intervistate sono nate tra il 1910 e 1920 e hanno svolto il loro servizio negli anni 20 e 30, e le altre sono nate dopo il 1930 e hanno lasciato l'Alto Adige dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nell'analisi delle interviste abbiamo usato il concetto della biografia collettiva. Cioè, vuol dire che da una parte le storie di queste donne sono tutte diverse, tutte specifiche, ma dall'altra parte sì, per certi aspetti si assomigliano molto. E noi abbiamo preso questi aspetti comuni per analizzare poi le interviste. Siamo partite dalle loro origini. La maggior parte proveniva da una famiglia contadina del ceto basso medio e non aveva nessuna formazione professionale. Il secondo quesito che ci siamo poste era come queste donne riuscirono a trovare un'occupazione in città. Loro ci hanno raccontato soprattutto di due modalità: il contatto diretto con famiglie italiane che si trovavano in Sud Tirolo, o per turismo o come dipendenti dell'esercito. E tante di queste famiglie cercarono proprio ragazze tedesche che venivano considerate diligenti, sincere e affidabili e offrivano inoltre la possibilità di insegnare ai figli la lingua tedesca. E la seconda strategia era quella di contattare chi era già in servizio in città per avere una mediazione. Esperienze comuni a tutte le donne erano poi il viaggio nelle città, il lavoro concreto in una casa borghese e la sfida delle città per quelle che erano nate e cresciute in un ambiente rurale. E di questi temi adesso ci racconterà adesso la Bene, allora chi erano queste donne? Cos'era la loro origine o com'era? Le sudtirolesi, quando decisero di prestare servizio in casa in una città italiana, erano giovani, tra i 18 e i 25 anni, erano nubili, anche se qualcuna aveva già un figlio prima di partire. Il più delle donne pensava di passare il suo soggiorno 1 o 2 anni nelle grandi città. Il lavoro domestico era visto, come nel resto dell'Europa, come una tappa nella vita femminile. Si andava a servizio prima di sposarsi per accumulare le competenze e le risorse necessarie a mettere su famiglia. La maggior parte delle ragazze veniva da, come già detto, famiglie contadine povere e numerose. In media le famiglie avevano 7-8 bambini, una cifra interessante anche perché ci fa capire che la migrazione e il numero dei bambini di una famiglia stanno in un contesto importante. L'infanzia e la gioventù delle ragazze erano caratterizzate dal lavoro intenso sui masi e sui campi. Le ragazze nate negli anni della Prima Guerra Mondiale avevano conosciuto la fame, il terrore e l'angoscia esistenziale trasmessa dai genitori ai bambini. Spesso i padri di queste ragazze servivano come soldati nella guerra, le madri restavano con i loro bambini a casa con tutto il lavoro sulle loro spalle. Già con 8 anni tanti bambini erano costretti a lavorare durante l'estate da altri contadini. La ragione era meno il salario, più contava la bocca e meno da sfamare. Così la scuola per i bambini era un passatempo benvenuto. Quello che contava però per i genitori era il lavoro sui campi. A secondo dei bisogni della famiglia, i bambini finivano la scuola già in primavera, quando il lavoro sui masi iniziava, e ricominciavano le lezioni soltanto in tardi autunno, quando la raccolta era finita. Solo nelle poche città altoatesine Bolzano, Merano o nei dintorni, le ragazze trovavano poi, finito la scuola, spesso con 12-13 anni, altre possibilità di lavoro, come commessa per esempio o come domestica. Spesso le ragazze poi partivano nelle città italiane da un bisogno economico. Nelle città italiane le ragazze guadagnavano più del doppio, anche il triplo. La città suscitava da un lato fascino, dall'altro però anche sgomento nelle ragazze. Toccava ora a loro, che erano abituate al lavoro duro di montagna, di adattarsi ad un nuovo mondo, quello di città, quello di famiglie spesso ricche, di medio-alta borghesia. C'era sì il desiderio nelle ragazze di conoscere un mondo nuovo, ma c'era anche la fatica dell'adattamento. Tante ragazze non conoscevano bene la lingua, alcune avevano imparato l'italiano a scuola, ma tante partivano senza saperne più di tanto. Non erano solo famiglie di lingua italiana dove le ragazze trovavano lavoro, ma molto spesso anche famiglie multietniche, dove la signora per esempio era tedesco e il signore invece inglese. La vita a casa dei padroni poi richiedeva obbedienza, pazienza, fedeltà e spesso poca vita privata. La situazione legale delle domestiche era caratterizzata da una mancata regolamentazione. Spesso erano considerate come, cito una deputata nel 1913, persone inferiori. Le ore di lavoro illimitate, sproporzionate all'età e dalla fisica costituzione delle ragazze, il nutrimento a volte insufficiente, le camere da letto spesso non esistevano. Toccava alle ragazze di dormire anche nella cucina su una panca di legno, magari anche sul divano in soggiorno, o avevano un posticino sotto le scale. Senza assicurazione sociale, senza protezione materna, la situazione legale delle domestiche è migliorata appena negli anni 70 dell'ultimo secolo. Come già detto, alle domestiche sudtirolesi spesso toccava fare tutti i lavori che in una casa bisogna fare: cucinare, pulire, lavare, stirare, fare la spesa, badare ai bambini se c'erano. Questa categoria di domestiche noi le chiamavamo allein Mädchen, quindi perché dovevano fare tutti i lavori. Se in una casa c'erano più servanti, il lavoro era più specializzato. C'era la cuoca che aveva un ruolo centrale, c'era la governante, c'era la donna di servizio, eccetera. Molto desiderato da famiglie italiane era la governante sudtirolese, proprio perché poteva imparare ai bambini la lingua tedesca. La lingua, come scrive Raffaella Sarti, che ha scritto nel nostro libro La Postfazione, la lingua tedesca era vista la lingua di Goethe, che conoscere divenne una moda dopo l'avvicinamento alla Germania nazista. Ritorno alle cuoche. Quelle ragazze che venivano assunte come cuoche venivano in contatto con cibi e piatti completamente nuovi. E qui le donne ci hanno raccontato delle storie molto belle. Le ragazze del Sud Tirolo non erano abituate, per esempio, a preparare la carne o il pesce o anche legumi esotici come le zucchine o i carciofi. Per loro era proprio una vita tutta nuova che si apriva. Tante non avevano mai preparato un caffè in mocca o non avevano mai cucinato rane o colombe. Era la prima situazione dove dovevano fare lavori anche molto strani per loro. Così la cucina divenne un punto di incontro culturale. I padroni apprezzavano la cucina tirolese, come i canederli, il goulash, i tirtlan, e le ragazze invece portavano a casa una cucina italiana. Quelle ragazze che in case molto ricche avevano la funzione di servire a tavolo raccontavano spesso che era un incarico anche molto psichico. Era fondamentale per le famiglie borghesi come una domestica si comportava quando avevano ospiti. Quindi tutto il comportamento delle ragazze veniva sottoposto a un controllo molto severo. Come apriva la ragazza la porta, come salutava gli ospiti, serviva i piatti nell'ordine giusto, come rispondeva al telefono, così via. Importante per le esperienze di lavoro sono anche i rapporti diversi in una casa. Come era per esempio il rapporto con la signora? Era severa, tirchia o si comportava da mamma? E il signore era arrogante, era simpatico o, cosa poteva anche succedere, era violento, magari si avvicinava in modo anche ambiguo. I bambini ai quali si doveva badare cercavano le coccole o erano piccoli tiranni, cosa accadeva molto spesso. E gli altri servanti in casa, se esistevano, erano amici nel buono o nel male o c'era una situazione di concorrenza. Cioè, erano tante storie che le donne ci hanno raccontato. E un altro punto che vorrei raccontare è la città come luogo di cambiamento esterno e interno. Con il lavoro in un nuovo ambiente si aprivano nuove possibilità per le ragazze. C'erano quelle che con occhi curiosi esploravano le città dove c'era tanto da vedere. Musei, cinema, teatro, opera, il mare, la campagna. Finalmente tante potevano uscire dal mondo chiuso del proprio paese e conoscere un universo più ampio. Naturalmente la città offriva anche la possibilità di fare nuove conoscenze. Alcune delle donne che avevamo intervistato avevano scelto una certa età perché c'era già la sorella, una cugina, un'amica e così si facevano le conoscenze con queste donne. Altre ragazze che lavoravano per esempio a Torino o Genova, città meno frequentate di Milano o Roma, si concentravano spesso sulle conoscenze fatte in casa. All'inizio la città grande si presentava come un labirinto per le donne. Spesso le ragazze uscivano di casa solo per fare la spesa, ogni altra via era sconosciuta per loro e non di rado si perdevano tra le grandi vie. Tanti usavano per la prima volta il tram, l'autobus o anche un taxi. Ragazze coraggiose e sicure di sé se la cavavano da sole. Con una piantina di città esploravano le chiese, le piazze e i monumenti. C'erano alcune che preferivano stare da sole in quelle poche ore libere, c'erano altre che si sentivano più sicure in un gruppo. Non poche ragazze erano anche molto isolate, obbligate a restare a casa perché i padroni non accettavano contatti con persone strane. Spesso i padroni si definivano come secondi genitori che dovevano stare ben attenti alle ragazze lontane da casa. Questa era una ragione perché tanti non facevano uscire le ragazze, ma c'era un'altra ragione più egoistica. Le ragazze non dovevano servire ai bisogni, le ragazze dovevano prima servire ai bisogni della famiglia. Erano venute per lavorare, non per divertirsi. I signori venivano alla casa come centro di vita delle loro domestiche, il giorno e anche la sera. Rendersi utili era importante e anche la sera c'erano tante cose da fare, cucire, ricamare o lavorare all'uncinetto. Quello che noi possiamo dire in questo contesto è che la solitudine era molto diffusa anche tra le domestiche e che c'è un'alta rata di suicidio. Era poi la Chiesa che con una fittissima rete di supporto e di controllo facilitava ai padroni di esaudire il desiderio delle loro domestiche di uscire quelle poche ore libere della domenica pomeriggio. In quasi tutte le città grandi, i conventi, a Milano e Roma anche in lingua tedesca, sostituivano alle domestiche le loro famiglie. Si parlava tedesco, si conoscevano altre ragazze, altre domestiche con le quali si poteva scambiare esperienze, si chiacchierava, si cantava, si ballava e i padroni sapevano le loro domestiche in buone mani. Un'occasione importante per le ragazze per uscire di casa e vedere nuove cose erano i viaggi con i signori. Tanti avevano un domicilio di vacanza in montagna o anche in campagna o sul mare e lì le domestiche le portavano con sé. Così alcune imparavano a nuotare, a sciare o a cavalcare. Il soggiorno in un domicilio di vacanza non significava automaticamente meno lavoro. Perché anche l'appartamento al mare doveva essere pulito, anche in montagna i signori avevano fame. Non erano solo viaggi, ma anche gite giornaliere nei dintorni che facevano uscire le ragazze dalla vita quotidiana. Poi la città agiva da maestra per le ragazze anche riguardante gli aspetti della moda. Le ragazze sudtirolesi si riconoscevano subito nelle città. Erano ragazze da montagna vestite in un modo diverso dalle donne di città. Così spesso la signora cercava per la sua domestica un vestito adatto. Igiene e un comportamento ordinato nel pubblico erano importanti. La signora quindi faceva le spese con la domestica o regalava alla serva quei vestiti che non servivano più. Dopo poco tempo le migranti su tirolesi si adattavano alla moda di città. Capelliere, guanti e tailleur trasformavano le donne, le ragazze in vere donne. Poi non solo i vestiti cambiavano le ragazze, ma imitavano anche le pettinature di città. Le trecce tradizionali spesso le ragazze le tenevano anche in città per paura dei giudizi dei loro genitori. Ma c'erano anche quelle che si facevano tagliare i capelli e portavano il pubico, segno della rivoluzione femminile degli anni venti. Capelli corti non erano solo pratici, ma erano anche un simbolo per la rottura con l'origine e la tradizione contadina. Continuo io adesso con l'argomento della politica, perché il fatto che molte delle protagoniste di questo libro siano andate a servizio in una città italiana durante gli anni del fascismo è importante. Ci permette di vedere il rapporto tra regime e popolazione tedesca in un modo molto particolare. Per le donne la decisione di andare in una città italiana non aveva niente a che fare con la politica. Si sentivano tradizionalmente molto lontana da essa. La permanenza in un ambiente italiano non diminuiva questa distanza, ma al contrario la aumentava. Spesso ci hanno raccontato che qui nel Sud Tirolo il fascismo si sentiva molto di più che nelle città italiane. Qui il confronto era in un certo senso onnipresente. Invece nelle famiglie italiane, anche se il datore di lavoro apparteneva alla gerarchia fascista, si parlava poco o mai di politica. Certi datori di lavoro erano anche contrari al fascismo o avevano molte riserve. E così le sudtirolesi potevano fare un'esperienza che era preclusa alla maggioranza dei sudtirolesi, cioè potevano capire che non tutti gli italiani in quell'epoca erano fascisti. Dall'altra parte, le esperienze delle ragazze erano comunque segnate dagli avvenimenti della cosiddetta grande storia. Per esempio, quando i loro padroni erano, come succedeva spesso, ebrei. Fino al 1938 non solo le famiglie ebree italiane, ma anche quelle tedesche fuggite dal Terzo Reich si trovarono in Italia in esilio e avevano domestiche del Sud Tirolo. Con le leggi razziali queste famiglie furono costrette a fuggire e le domestiche non solo persero il loro posto di lavoro, ma vissero anche in modo molto diretto questa fuga. Un altro momento di contatto immediato tra politica e la vita delle donne fu il 1939, l'anno in cui scoppiò la guerra e l'anno delle opzioni. Per questa parte della nostra ricerca abbiamo avuto anche la possibilità di confrontare direttamente le fonti orali con le fonti scritte. Nell'archivio centrale dello Stato è conservato un grande numero di lettere che erano state censurate e quelle relative all'Alto Adige sono scritte per lo più o da soldati sudtirolesi che si trovavano in servizio o da domestiche di origine sudtirolese. E in queste lettere le ragazze spesso si esprimono in modo molto chiaro e deciso sulle opzioni. Cito dalla lettera di una donna che scrive a casa sua: qui a Roma io mi trovo benissimo e non credo che in Germania possa stare meglio. Qui sono con dei bambini e parlo sempre tedesco. Ho da mangiare e posso risparmiare. E un'altra scrive anche a casa: in Italia mi trovo bene perché vengo da tutti stimata, amata e rispettata. Anche le nostre intervistate hanno raccontato di aver tentato di convincere la propria famiglia a tenere la cittadinanza italiana e a rimanere in patria. Come sappiamo, la maggior parte dei sudtirolesi ha optato per la cittadinanza tedesca, come anche poi la maggioranza delle nostre intervistate, cioè questa corrispondenza. E credo che, nonostante un primo conflitto interiore, abbiano poi avallato la decisione della loro famiglia, cioè non hanno osato di fare altro. Come già detto, la maggior parte delle donne tornò in Sudtirolo. I motivi per il ritorno furono diversi. Il matrimonio, motivi familiari come per esempio la morte di uno dei genitori e anche cesure politiche come le opzioni. Il ritorno in patria costrinse le donne ad un nuovo adattamento e non fu facile. Per esempio il matrimonio, che per molte segue dopo poco tempo, fu un'esperienza vissuta in una maniera ambigua. Da un lato offriva la possibilità di cambiare lo status di dipendente in quello di padrona di casa. Dall'altro l'ambiente in cui si trovavano era molto più povero da quello che avevano lasciato. Inoltre nel mondo rurale nel quale ritornavano vigevano norme del tutto diverse. Un'intervistata, per esempio, ci raccontò che, ritornata da Milano con capelli corti, il marito le chiese di farli ricrescere perché da noi si portano i capelli lunghi. Però tutte le donne, anche se le loro esperienze in città non furono del tutto positive, come ha detto anche Ursula, ritengono quel periodo molto importante per la loro vita, perché avevano visto una parte nuova del mondo, avevano imparato a stare da sole, senza famiglia, in un ambiente straniero, erano cioè cresciute. E quelle esperienze di lavoro e di crescita personale non erano più indelebili. Arrivo alle conclusioni. Con questo libro abbiamo trattato un tema che non a caso fino ad ora è stato trascurato. Anche se se si conosceva il fenomeno, perché era molto diffuso, mancava però ogni ricerca scientifica. E secondo noi le spiegazioni per questa mancanza sono le seguenti. Per primo, la storia delle donne e la storia della cultura quotidiana entrano con grande difficoltà nell'interesse storiografico. E nel nostro caso questo fatto viene accompagnato del motivo che la immigrazione di donne tedesche in città italiane negli anni 20 e 30, ma anche negli anni 50, esula da una storiografia obbligata alle categorie etniche. Esistono quindi ricerche sulla immigrazione negli anni 50 nel mondo tedesco, Svizzera, Austria o Germania, ma ne mancava una su quella verso il mondo italiano. Riteniamo importante questo libro non solo in un ambito regionale. L'attuale rinascita e la globalizzazione del servizio domestico è un fenomeno che ha suscitato un largo interesse tra gli analisti sociali, in parte proprio perché contraddice radicate aspettative relative alla modernizzazione della sfera domestica e dei rapporti di lavoro. Scrive così la storica Raffaella Sarti nella postfazione del nostro libro. E penso che il materiale di questo libro possa condurre anche ad un paragone tra le esperienze storiche delle donne sudtirolesi e quelle attuali di una golf senegalese o di una badante polacca, cioè dove esistono continuità e in che misura si distinguono le loro esperienze. In questa ottica che vediamo la nostra ricerca anche come contributo per la comprensione dei problemi e delle situazioni attuali, e penso che questa è una funzione della ricerca storica molto importante. Grazie.